Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, tra pochi giorni si apre a Bruxelles un importante vertice europeo, il Consiglio europeo, che sarà l'occasione per fare il punto sulla salute dell'Europa, sul processo di integrazione e naturalmente sull'euro. E di questi temi tratta il libro che vi presento oggi di Pier Virgilio D'Astoli, che è il presidente del Movimento Europeo in Italia, e di Roberto Santaniello, che è stato un alto funzionario della Commissione europea che attualmente dirige le relazioni internazionali al Comune di Milano. Il libro si intitola Eravamo tanto amati, Italia, Europa e poi, è pubblicato da Università Bocconi, 140 pagine, 15 euro. Si parte nel libro dal dopoguerra per analizzare che cosa abbia significato la scelta europeista che l'Italia fece subito, fin dai tempi di De Gasperi, attuando una svolta che fu osteggiata in tutti i modi dal Partito Comunista, come ebbe a riconoscere anche Giorgio Napolitano, il quale scrisse che dal PC non venne compresa, ma piuttosto svalutata e negata la storica novità dell'invenzione comunitaria. Il federalismo europeo fu visto come un mito dietro il quale si nascondeva l'adesione al disegno dell'imperialismo americano. Poi il rovesciamento, i tempi cambiano, l'Europa si consolida e a un certo punto addirittura è piuttosto la destra che appare scettica nei confronti dell'Europa, che invece viene difesa assolutamente dal centro-sinistra. Anzi, scrivono i due autori che il centrodestra fa la scelta culturale di bollare l'europeismo come una cosa di sinistra. Insomma, nel libro si parla di tutti questi sviluppi fino alla crisi di credibilità attuale che ha molto raffreddato gli entusiasmi dei cittadini sull'Unione Europea, che in Italia erano molto forti. Ma su questo sentiamo uno degli autori. Buongiorno a Roberto Santaniello. Buongiorno Salvatore Carrubba. Allora, bene, tutto bene. Roberto Santaniello, in questo libro che ha scritto con Pier Virgilio D'Astoli, a un certo punto segnalate la schizofrenia, così dite, tra la dimensione economica e quella politica dell'Europa, che è una schizofrenia strana perché in fondo l'Europa nacque con un grande disegno politico subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Eh sì, a parte che prendiamo a prestito questo termine dal compianto Tommaso Padoa Scroppa, che tanto ha dato all'Europa e alle riflessioni e alle azioni dell'Unione Europea. Certo, la nascita dell'Unione Europea, delle comunità europee, era ispirata da elementi economici, ma con un obiettivo chiarissimo, quello politico. Ricordiamo la comunità europea del carbone e dell'acciaio, che però aveva una finalità chiarissima, quella di mettere fine al conflitto tra Francia e Germania. E quindi oggi il processo un po' si capovolge, cioè raggiunto in un certo senso una stabilità politica importante, ci ritroviamo invece con degli strumenti ancora non adeguati per far fronte alla globalizzazione e soprattutto a tutte le questioni economiche che, come sappiamo, stanno mettendo a dura prova l'Unione Europea e molti governi nazionali. Ecco, e quali sono secondo voi le condizioni alle quali l'Europa può riprendere questo processo anche di cessione di sovranità degli stati a un'entità più autorevole, diciamo? Dunque, innanzitutto diciamo, storicamente è accaduto questo: si è trasferita fino alla metà degli anni Ottanta, si è trasferita sovranità amministrativa per realizzare degli obiettivi a carattere economico, per eliminare ostacoli e quindi al commercio intracomunitario. Questo ha consentito, per esempio, la realizzazione del mercato unico. Da quel momento in poi, cioè dalla metà degli anni Ottanta, sostanzialmente dal trattato di Maastricht in poi, la cessione di sovranità è stata, per intenderci, esplicita, quella monetaria innanzitutto, che è stata ceduta, come sappiamo, alla Banca Centrale Europea. Quella economica ha un percorso molto diverso, perché si è preferito lavorare innanzitutto attraverso il coordinamento delle politiche economiche e quindi dando comunque responsabilità agli Stati, salvo poi comprendere e capire che alcune dinamiche, e sta accadendo questo, impediscono una sintesi di una politica economica a livello comunitario, a livello di Unione Europea, che per esempio consentirebbe di riprendere sentieri di crescita e di creazione di nuova occupazione, che è il vero grande problema che si trova in questo momento l'Europa, su cui l'Europa si trova a confrontare. Nel vostro libro ha un punto centrale, e lei lo ha già citato, il trattato di Maastricht. Ecco, quel trattato adesso, dopo tanto tempo, come lo si può giudicare? Fu una fuga in avanti? Fu qualche cosa di effettivamente lungimirante? Servì? Ha provocato qualche elemento distorsivo nel processo di unificazione europea? Beh, insomma, il trattato di Maastricht è un chiaro esempio della confusione in cui in quel momento confluivano elementi diversi, cioè da modelli diversi, tra cui quello federalista o quello intergovernativo o quello che io chiamo tecnicamente neofunzionalista, che era a quel punto collegato alla cessione di sovranità amministrativa per realizzare il mercato interno. In sintesi, mentre il trattato di Roma è stato realizzato, è stato firmato con il muro di Berlino, con la divisione dell'Europa in blocchi, il trattato di Maastricht è stato firmato esattamente quando il muro di Berlino era caduto, cioè quando bisognava inventarsi una nuova architettura europea dopo anni in cui la divisione in blocchi ci aveva abituato a pensare e ad agire in un certo modo. Ecco, direi che il trattato di Maastricht ha costituito un punto di partenza certamente molto confuso, ricordiamoci come fu digerito male dai francesi e dagli stessi tedeschi, visto che vedevano l'autonomia del Marco a rischio, come poi è avvenuto creandosi l'euro. Piano piano ci sono state stabilizzazioni differenti, perché il trattato di Maastricht ha avuto moltissime modifiche, cioè è stato una specie di viaggio in Europa, come raccontiamo nel libro, cioè Amsterdam, Nizza, il tentativo della Costituzione europea, ancora Lisbona. Ora siamo in una fase in cui è necessario, per creare un vero sistema di governo europeo, ripensare il funzionamento dell'Unione Europea per renderla più democratica, ancora più partecipata, ma soprattutto per mettere in campo delle azioni di politica economica che in qualche senso si potrebbe sintetizzare in un'altra felice espressione di Tommaso Padoa-Schioppa, e cioè agli stati il rigore, cioè il rispetto dei parametri, la necessità di mettere sotto controllo la spesa pubblica e le finanze pubbliche, ma all'Unione Europea la crescita. E che cosa significa questo? Mettere in campo un grande piano di crescita sostenibile basata su investimenti che consenta all'Europa di creare sviluppo economico e creazione di nuovi posti di lavoro. Le conclusioni del vostro libro si intitolano Italia ed Europa, ci eravamo tanto amati, e poi, cioè qui si parla molto dell'euroscetticismo crescente anche nel nostro paese, che invece era un paese fortemente europeista. Sì, diciamo, il titolo può trarre in inganno, perché potrebbe dare la sensazione del disincanto, della rassegnazione, un rapporto che in qualche modo è al termine. In realtà il libro è esattamente l'opposto, cioè un libro che ci consente di lanciare un messaggio positivo all'opinione pubblica italiana. Certo che se l'Europa continua a mostrare la sua faccia guardinga, a volte feroce, che è quella di dire dovete rispettare i parametri che consentono di mantenere il livello del debito pubblico a una certa quota del PIL e così via, mentre è necessario mettere in campo appunto politiche economiche proattive che mettano in moto dei processi di crescita, beh, la gente rischia di la disaffezione, la rassegnazione e in altri momenti addirittura l'aspra critica o addirittura il rigetto. E da questo punto di vista le prossime elezioni del Parlamento europeo sono un'occasione fondamentale per la politica europea, sia a livello delle istituzioni che dei governi, perché certo entro quella data l'Europa deve dare delle risposte concrete della sua capacità di agire in comune per dinamizzare il continente e soprattutto per dare risposte ai giovani, che come abbiamo visto anche con le iniziative che sta assumendo in sede europea il Premier Letta, sono determinanti per dare una visione diversa della costruzione europea, del progetto europeo all'opinione pubblica europea. Bene, aspettiamo le prossime scadenze. Allora, grazie a Roberto Santanella, autore con Pier Virgilio D'Astoli di C'eravamo tanto amati. Buona domenica. Grazie, buona domenica a te. E parlando delle origini dell'integrazione europea, il libro di D'Astoli e Santaniello fa riferimento a uno degli articoli forse più popolari della nostra Costituzione, l'articolo 11, quello che recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Questo è il testo dell'articolo. Un articolo, dicevo, popolare, spesso tirato in ballo, spesso a sproposito, nei dibattiti, per esempio, sulle partecipazioni italiane alle missioni di pace. E quindi è un articolo importante sul quale ci si può chiarire le idee col libro, l'articolo 11 della Costituzione, baluardo della vocazione internazionale dell'Italia, pubblicato da Editoriale Scientifica, curato da uno studioso di questi temi, Natalino Ronzitti, che è un docente di diritto internazionale, 210 pagine, 15 euro. Nel libro troviamo vari studiosi che esaminano il testo della Costituzione per collegarlo anche alla nostra appartenenza alle grandi istituzioni internazionali come appunto l'Unione Europea o le Nazioni Unite, per concludere, come fa Ronzitti, che questo articolo rimane fondamentale per la definizione politica estera italiana. Aggiunge l'autore, non solo per quanto riguarda l'invio delle missioni all'estero, su cui ormai ha acquisito un consensus a livello maggioranza opposizione, ma anche per quanto riguarda l'integrazione europea. E a proposito di missioni di pace, vi segnalo di Maurizio Piccirilli, che è un giornalista del Tempo, il libro Ferita Afghana, storia di soldati italiani in 10 anni di missione, pubblicato da Mursi, a 90 pagine, 9 euro, nel quale si racconta con parole e qualche immagine la nostra presenza in quel paese, punteggiata da eventi spesso drammatici che hanno coinvolto i nostri militari, da ultimo il capitano Giuseppe La Rosa. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di un altro appuntamento probabilmente più popolare del vertice europeo, il torneo di Wimbledon, che inizia domani e si protrarrà, tempo permettendo, fino al 7 luglio. È un appuntamento ovviamente imperdibile per i tennisti, che potranno festeggiare con alcuni titoli che adesso vi segnalo. Il primo è Wimbledon, 60 anni di storia del più importante torneo del mondo, di Gianni Clerici, notissimo giornalista sportivo ed esperto in particolare appunto di tennis, è pubblicato da Mondadori, 706 pagine, 22 euro. Il Vaticano del tennis, così aveva definito Wimbledon lo scrittore e tennista Giorgio Bassani. E a Wimbledon Clerici riesce a mettere piede per la prima volta nel 1953, quando addirittura gioca su quel mitico campo d'erba. Clerici sarebbe poi stato il primo giornalista accreditato al torneo nel 1965 e da allora ha seguito ovviamente tutte le edizioni. Insomma, Wimbledon Clerici di casa è animato da una partecipazione che va molto al di là delle funzioni professionali svolte in oltre 8.000 articoli sul tennis e per i quali ha ricevuto anche importanti riconoscimenti internazionali. Da quel 53 nel libro, anno per anno, troviamo le cronache della presenza a Wimbledon attraverso una scelta dei suoi articoli intervallati da una serie di ritratti sui protagonisti del mondo del tennis di questi ultimi 60 anni. E di Wimbledon si parla in uno dei due saggi sul tennis del grande scrittore americano David Foster Wallace, morto nel 2008, ripubblicati da Einaudi, Il tennis come esperienza religiosa, 92 pagine, 10 euro, tradotto da Giovanna Granato. Wallace scrisse 5 saggi sul tennis, che è uno sport che lui stesso praticava. Li scrisse tra il 91 e il 2006 e questi sono gli ultimi due: Democrazia e commercio agli US Open e Federer come esperienza religiosa. È una prova letteraria, ancorché applicata dei saggi, che conferma l'importanza che il tennis assume nella vita e nell'opera di Wallace. Capace anche di sdrammatizzare alcuni santuari del tennis, a partire proprio da Wimbledon, come dimostrano le righe che adesso vi propongo. Wimbledon è strana. In verità è la Mecca di questo gioco, la cattedrale del tennis. Ma la giusta dose di venerazione in loco risulterebbe meno indigesta se il torneo non si prodigasse a ribadire di continuo che è la cattedrale del tennis. c'è un misto tutto particolare di autocompiacimento stucchevole e di implacabilità nel promuovere e vendere se stessi. Un po' come il pezzo grosso che tappezza la parete del suo ufficio con ogni minimo diploma, onorificenza o targa abbia mai ricevuto. E tutte le volte che metti piede là dentro sei costretto a guardare quella parete e a dire qualcosa che esprima ammirazione. A Wimbledon, le pareti di quasi ogni corridoio e passaggio importante sono coperte di poster e cartelli con i vecchi campioni, gli elenchi di fatti e curiosità su Wimbledon, la tradizione storica e via dicendo. Roba in parte interessante, in parte semplicemente curiosa. E a proposito di Wallace, apriamo qui una parentesi per un libro che egli ha ispirato. Ricorderete che lo scrittore americano si suicidò. L'emozione di questo dramma provò in particolar modo un altro grande scrittore americano, Jonathan Franzen, che era grande amico di Wallace e che, reduce dal successo planetario del suo libro Libertà, si reca a fare un'esperienza quasi eremitica in una isoletta cilena sperduta nel Pacifico, Masa Fuera, che vuol dire più lontana. E dove tra l'altro avrebbe sparso parte delle ceneri di Wallace che gli erano state affidate dalla vedova. La sua fuga, spiega Franzen, era stata in parte determinata proprio dal vuoto per la scomparsa del suo amico scrittore. Egli infatti scrive che la mia attuale fuga da me stesso era cominciata poco dopo la morte di David, 2 anni prima. E qui troviamo il frutto di questo eremitaggio nel libro Più lontano ancora, pubblicato da Einaudi, 304 pagine, 19,50, tradotto da Silvia Pareschi, dove troviamo vari scritti a partire da un bellissimo discorso che Franzen tiene al conferimento delle lauree in un college USA 2 anni fa e che si intitola significativamente Il dolore non vi ucciderà, e c'è anche il discorso funebre per Wallace che Franzen tenne nel 2008, oltre naturalmente alla cronaca nell'isola che gli ispirano riflessioni anche sull'origine del romanzo, oltre che sui suoi amati uccelli, quello per il quale è diventato famoso in queste ultime settimane, proponendo di eliminare i gatti che a loro volta eliminano gli uccelli. Riprendiamo con il tennis, con un libro così intitolato, il libro di un grande giornalista americano, John McPhee, è pubblicato da Adelphi, 222 pagine, 15 euro, ed è curato da Matteo Codignola. Sono due saggi magistrali. Il primo è ispirato a una semifinale di Forest Hills del 1968 tra Arthur Ashe e Clark Grebner. Ma in realtà si tratta di molto di più di una cronaca sportiva, per quanto ricostruita con un linguaggio straordinariamente efficace. Il confronto tra i due campioni assume davvero un significato epico e permette di andare a fondo delle personalità dei giocatori, mettendo a nudo le componenti più nascoste del tennis e dei suoi protagonisti. In effetti, dice McPhee, una partita lottata, tesa, in cui due avversari si esprimono al meglio e gli errori non hanno un peso determinante, è prima di ogni altra cosa uno scontro di psicologia, specie se due si conoscono talmente bene da non temere sorprese di tipo tecnico. L'altro saggio è dedicato a una figura appartata ma fondamentale, il signor Robert Twynham, che per 44 anni è stato il giardiniere che ha curato i mitici prati di Wimbledon. Il signor ovviamente è un perfezionista del campo e non esita a ricorrere a qualche aiuto straordinario quando ce n'è bisogno. E di tennis si parla anche nel libro di John Barrow, che è un fisico e matematico di Cambridge, 100 cose che non sapevi di non sapere sullo sport, pubblicato da Mondadori, 318 pagine, 19 euro, tradotto da Laura Serra. Prendendo spunto dalle Olimpiadi di Londra, Barrow ci svela alcuni segreti di natura matematica e scientifica che stanno dietro allo sport. Per esempio, nel campo del tennis ci illustra come funziona la racchetta e ci ne spiega le modifiche avvenute negli ultimi anni. Infine, non tennisti, segnalo La leggenda del basket di Mauro Arcieri e Valerio Bianchini, giornalista il primo, allenatore il secondo, che esce in una nuova edizione pubblicato da Baldini e Castoldi, 652 pagine, 24,90 euro. Il basket, scrivono gli autori, è un gioco globale, l'unico fenomeno planetario nei confronti del quale nemmeno i no global più accesi trovano elementi da contestare o principi politicamente ed economicamente scorretti. Globale nel senso di sport che affascina e conquista, qualunque sia il livello e la matrice culturale di chi ne viene a contatto. E qui troviamo le origini. la diffusione di questo sport a partire naturalmente dagli Stati Uniti, dove nacque, anche se le sue origini affonderebbero addirittura in riti, pare anche piuttosto crudeli, dei Maya. E poi si parla naturalmente dell'Italia, dei successi riscossi dalle nostre squadre negli anni 60 e, tra l'altro, per concludere, del rapporto tra il basket e il cinema. E a questo punto... Il confettino. Segnalo naturalmente due titoli sportivi, uno dedicato proprio al basket di Marco Menozzi, Pick and Roll, la grande sfida illustrata da Antonio Campo e pubblicato da Tea, 160 pagine, 10 euro, è un romanzo per ragazzi ispirato alla sfida di una squadra di giovanissimi che troveranno il modo di affermarsi e di trovare anche la propria personalità. L'altro libro invece calcistico, ha un richiamo calcistico, è quello di Gemma Pasquali Escrivà, Giocherò nel Barça, tradotto da Arianna Pabis, per San Paolo, 126 pagine, 12,50 euro, dove si parla in prima persona dell'avventura dei ragazzi senegalesi che, inseguendo il mito del calcio, si trovano o possono trovarsi anche in un barcone per cercare di emigrare. E a questo punto ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi, regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro chiocciola radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona settimana.